Nerdcast presenta. Nerd Show. Puntata numero 1. Benvenuti alla prima puntata di questa pseudo rubrica, sorella di Nerdcast, che ho chiamato Nerd Show. Rubrica che userò per parlare di cose specifiche invece di fare un podcast in generale, per quello c'è già Nerdcast. Quindi, di che cosa parliamo oggi? L'avevo già, in un certo senso, già rivelato nell'ultima puntata di Nerdcast. Volevo fare appunto questa fila di speciali dedicati a giochi singoli, recenti e passati. Oggi, in questa primissima puntata di Nerd Show, parliamo di uno dei miei giochi in generale preferiti, ovvero Final Fantasy 9. E al posto delle, diciamo, argomentazioni normali, parleremo soltanto di questo e ascolteremo le soundtrack che provengono appunto da Final Fantasy 9. Siccome c'è tanta roba da dire, io inizierei col passare la primissima soundtrack che ho scelto per voi di Final Fantasy 9. Si chiama Battle One, è diciamo la musichetta di battaglia di Final Fantasy 9. Godetevela e a dopo. Partiamo subito in quarta. Questa era appunto Battle One, musichetta diciamo standard di battaglia di questo capitolo di Final Fantasy. Parliamo di Final Fantasy 9 dunque. Allora, perché parlare proprio di Final Fantasy 9? Brevemente, diciamo che tra i Final Fantasy forse non è uno dei più famosi, anzi. Però mi andava di parlarne perché, diciamo, tra i Final Fantasy è quello che ritengo sia quello, il migliore, diciamo, il mio preferito. Però magari, che ne so, se mi andrà, sicuramente mi andrà, nel futuro faremo anche puntate riguardo tutti gli altri Final Fantasy. Iniziamo appunto dal 9. Dunque, Final Fantasy 9, come appunto dice il nome, è il nono capitolo della saga di Final Fantasy, arrivati fino ad oggi al 14°, uscito in Giappone nel 2000, in Europa, insomma, il resto del mondo nel 2001, disponibile solo per PlayStation, diciamo PlayStation 1, PSX. Per chi di voi avesse PSP e PS3, si può acquistare sul PlayStation Network. Allora, come dicevo prima, probabilmente Final Fantasy 9, tra tutti i Final Fantasy, non è diciamo il più famoso. Probabilmente il più famoso è il 7, no? Final Fantasy 7, che conoscono più o meno tutti i geek, i nerd. Final Fantasy 9 arriva praticamente dopo l'ondata di grandissimissimo successo sia di Final Fantasy 7 che di Final Fantasy 8, che avevano venduto, insomma, a quell'epoca tantissimo, erano diventati, diciamo, lo standard proprio, no? di Square Enix. Appunto esce dopo 2 anni dall'8 Final Fantasy IX. Per certi versi, siccome si discosta quasi completamente, no, dal predecessore, dall'8, viene un attimo preso un po' freddamente, però col tempo riesce ovviamente ad arrivare al successo che si merita. Quindi insomma non parliamo sicuramente di un Final Fantasy fallimentare, anzi, ma è un Final Fantasy particolare perché diciamo ha dei canoni che si distaccano quasi completamente dal resto dei Final Fantasy, diciamo in 3D, ecco, possiamo dire così, perché per vari motivi. Allora, per prima cosa facciamo ordine, iniziamo dalla storia molto, molto sommaria, perché come sapete insomma la storia di Final Fantasy è lunghissima e in generale la storia è che ovviamente c'è questo mondo che si chiama Gaia. Il protagonista principale è un ladro che fa parte di una compagnia teatrale di nome Jidan o Zidan, dipende dalla versione. Diciamo in quella giapponese è Jidan con la G, in quella europea americana è Zidan con la Z. Però vabbè, io a me piace chiamarlo Jidan. Appunto è Jidan. E il quale, diciamo, essendo appunto un ladro, ha in mente con i suoi compagni di un piano riguardo, diciamo, la cattura della principessa Garnet, che è appunto figlia di una regina della città di Alexandria. Senza andare, diciamo, troppo a fondo, perché poi non ne usciremmo più, diciamo che dalla cattura che riesce appunto della regina, Jidan e la regina Garnet, che poi cambierà nome in Dagger, che sarà poi, diciamo, uno dei personaggi giocabili del gioco, inizieranno l'avventura che li porterà, insomma, a scoprire vari misfatti riguardo anche alla madre della regina e tutto il resto, fino ad arrivare in un certo senso alla scoperta del vero antagonista, no? Della storia, che in questo capitolo si chiama Kuja e che avrà, diciamo, un legame particolare con Jidan, che ovviamente non voglio svelare per ragioni di spoiler, diciamo. L'ho detta molto sommariamente, però insomma diciamo che il viaggio iniziale inizia con i 4 personaggi principali del gioco, che appunto dopo i 2 citati Garnet, ovvero Dagger e Zidane, sono anche Vivi e Steiner. Oltre a questi 4, gli altri personaggi giocabili sono Freja, Quina, Eiko e Amaranth, ovvero 8 personaggi giocabili. Qual è la vera, diciamo, novità? Diciamo che sotto il profilo della storia, in generale, non ci sono delle novità proprio assolute, quindi più o meno possiamo dire che la storia è una storia classica, no? Insomma, sempre il ladro che rapisce la principessa, per la principessa che si innamora del ladro e insieme collaborano, eccetera. Quindi un po'... Sì, un po' si può capire, tranne magari verso l'ultima parte del gioco. La cosa interessante di Final Fantasy IX è che, diciamo, c'è un modo di giocare diverso rispetto ai Final Fantasy, diciamo, precedenti. In poche parole, tutti i Final Fantasy fino a Final Fantasy VI, uscito per Super Nintendo, avevano 4 giocatori principali nella schermata di combattimento, quindi si combatteva con 4 giocatori, cosa che si è andata a perdere nel tutti gli altri Final Fantasy dopo, cioè nel 7, nell'8, nel 10, nel 12 si combatte sempre con solo 3 personaggi, mentre nel 9, diciamo, è l'unico Final Fantasy, il 9 è l'unico Final Fantasy, non vorrei dire next gen, però ecco, diciamo uscito su piattaforma PlayStation, con cui che permette di giocare in 4 giocatori. Però continuiamo a parlare fra un poco, perché adesso mettiamo un'altra soundtrack sempre da Final Fantasy 9. Questa si chiama Rose of April, è un pezzo di violino e piano fatto molto molto bene. Diciamo, del sonoro ne avrò possibilità di parlarne, diciamo, un po' più avanti. Al momento godiamoci Rose of April da Final Fantasy 9. Rose of April, soundtrack di Final Fantasy 9, ovviamente di Nobuo Uematsu, ma appunto ne parliamo dopo. Quindi abbiamo introdotto Final Fantasy 9, quattro personaggi giocabili, una grafica diversa rispetto all'8, diciamo una percezione anche del gioco diversa, no, da parte dei fan, una storia che all'apparenza, diciamo, sembra un po', diciamo, scontata, ma che ovviamente definire scontato una storia di qualunque Final Fantasy è una sorta di bestemmia, perché insomma, le storie dei Final Fantasy sono tutto altro che scontate, insomma. Quindi abbiamo parlato un po' della storia molto sommariamente, ripeto, perché se no davvero sarebbe stato un discorso lungo. Una cosa interessante è che questo forse è l'unico Final Fantasy, credo, non soltanto della serie principale, ma proprio di tutti i Final Fantasy. No, forse di tutti i Final Fantasy no, però della serie principale è l'unico Final Fantasy che permette di giocare in multiplayer. Sì, cioè, proprio permette due giocatori di giocare appunto in multiplayer, però per quanto riguarda, diciamo, semplicemente i combattimenti, perché ovviamente soltanto uno è il personaggio di base che può fare free roaming, diciamo, mentre nei combattimenti si può, diciamo, anche nei menu ovviamente si gioca a multiplayer, solo due persone però. Appunto, come ho detto, è una sorta di free roaming, non nel senso di GTA, ecco, però nel senso di degli altri Final Fantasy prima. Free roaming, probabilmente con Final Fantasy 12, Final Fantasy 9 è l'ultimo Final Fantasy che permette l'esplorazione libera ed è un'esplorazione, anche una mappa praticamente tutto per tutto uguale, o se, almeno simile all'esplorazione tipo di Final Fantasy VII. Molto interessante notare il fatto che lo stesso Final Fantasy IX non fosse neanche, cioè all'inizio non fosse stato concepito come un vero e proprio Final Fantasy. Sarebbe dovuto essere un gioco completamente diverso, con una storia diversa, con un nome diverso. Poi per diciamo qualche motivo nascosto, nonostante diciamo delle critiche iniziali, Final Fantasy IX diventò appunto Final Fantasy IX. E meno male che fu così, perché insomma è un degnissimo Final Fantasy. Per quanto riguarda in un certo senso il gameplay, oltre a, come abbiamo detto appunto, l'utilizzo di quattro personaggi, multiplayer eccetera, diciamo che il gameplay alla fine ricalca un po' i concetti, diciamo le funzionalità fondamentali degli altri Final Fantasy. Quindi anche in questo capitolo ci sono delle mosse, diciamo tra virgolette, speciali, che vengono chiamati trance, e insomma si caricano per ogni personaggio rispetto al danno che viene procurato al personaggio. Quindi più danno un personaggio riceve, più si carica la barra della trance, cioè del colpo diciamo speciale del personaggio, che poi insomma varia. E questo insomma non è una novità, c'è cioè, praticamente in tutti i Final Fantasy. Non è una novità neanche il fatto delle evocazioni, cioè anche in Final Fantasy IX esistono delle invocazioni, o evocazioni insomma, che sono alla fine degli attacchi speciali, che consistono appunto nell'evocare dei mostri. In questo caso vengono chiamati Eoni o Eidolons in inglese, e appunto combattono con noi. In questo capitolo però le summon sono hanno diciamo un aspetto magari più importante, poiché soltanto due sono i personaggi giocabili che possono evocare, ovvero la principessa Garnet, appunto detta prima, e Eiko, che è però un personaggio che si prende più o meno verso metà gioco. Quindi insomma, se volete evocare le summon in questo Final Fantasy, dovete tenere in squadra almeno o Eiko o Garnet. Un altro luogo comune, diciamo, di Final Fantasy IX sono anche i Chocobo. Diciamo un luogo meno comune rispetto agli altri Final Fantasy, perché non ci sono tantissimi riferimenti ai Chocobo in questo capitolo. Però è l'unico capitolo in cui si ottiene un Chocobo per tutto il resto del gioco. Cioè i Chocobo da cavalcare in realtà sono è semplicemente uno, che ha pure un nome particolare, il quale nome non mi viene al momento. Insomma, con questo Chocobo in pratica si possono trovare tesori nascosti e tutto il resto, insomma. Quindi in un certo senso è un Final Fantasy che alla fine ricalca diciamo i luoghi comuni, no? di tutta la serie dei Final Fantasy. Però c'è da dire che dal Final Fantasy X in poi, quindi da quello successivo in poi, un po' andranno a scemare le riprese un po' dei luoghi comuni, no? dei Final Fantasy. Quindi in un certo senso come se Final Fantasy fosse davvero l'ultimo Final Fantasy puro, in un certo senso, che sia uscito. In generale cioè una cosa che me lo fa piacere più degli altri, il fatto che racchiude in sé praticamente tutta l'essenza, no? della saga Final Fantasy. Secondo me è proprio l'apice della saga, ed è sicuramente un gioco da provare proprio a mani basse, senza pensarci neanche. Dunque, prima di passare a parlare delle curiosità varie di questo Final Fantasy, un'altra soundtrack sempre da Final Fantasy 9, sempre Nobuo Uematsu. Questa volta si tratta di un pezzo di piano pazzesco, si chiama Dark Messenger. Vabbè, godetevela, perché non ci sono parole per descriverla, insomma. Dark Messenger, Nobuo Uematsu e chi altri, insomma. Dunque, io prima ho detto che Final Fantasy 9, secondo me, è il Final Fantasy definitivo completo, e secondo me è verissimo, lo ribadisco. Anche perché le citazioni, le curiosità proprio, le riprese proprio di tutti i canoni della serie proprio, no? Dell'essenza Final Fantasy, ci sono tutti. Uno dei più famosi si chiama Vivi. Allora, conoscete Vivi? Chi è Vivi? Probabilmente, se siete davvero dei geek, dei nerd, se volete definirvi tali, l'avrete almeno visto almeno una volta. Cioè, se in questo momento magari siete davanti al computer e digitate Vivi, non so, magari su Google, e cercate le immagini, sicuramente verrà da dire: ah, ecco chi è, ma non credevo che si chiamasse Vivi. Perché chi è Vivi, in un certo senso? Proverò a descriverlo. È quella figura di maghetto molto piccolo, senza faccia, con soltanto degli occhi gialli, col solito abbigliamento da maghetto, con il cappello da mago, con la piega, eccetera. Ed è, e ne sto parlando, diciamo, in questo modo, così, come se fosse una cosa super importante, perché in effetti è una cosa super importante, nel senso che riprende l'aspetto dei primissimi personaggi utilizzati nei primissimi Final Fantasy rispetto, diciamo, al personaggio del mago. In un certo senso, diciamo che ci sono pochi, ma anche allo stesso tempo pochi, molti personaggi di Final Fantasy che identificano, no? Con il loro aspetto un gioco intero. Per esempio Cloud Strife identifica sicuramente Final Fantasy 7, Squall identifica Final Fantasy 8, ad identificare Final Fantasy 9 in tutto e per tutto è Vivi. E in un certo senso io sarei dire che Vivi identifica proprio la serie dei Final Fantasy in generale, è proprio il personaggio che identifica lo spirito dei Final Fantasy, ed è un personaggio, come ho detto prima, giocabile sin dall'inizio nel gioco. Oltre a Vivi, un'altra delle curiosità ricorrenti invece in tutti i Final Fantasy, questa, proprio in tutti, è che anche Final Fantasy 9 esiste un personaggio che si chiama Cid. Quindi brevemente, a partire dal secondo Final Fantasy, da Final Fantasy 2 si parla degli anni 80, diciamo, fine anni 80, in ogni Final Fantasy, non soltanto della saga principale, compare sempre un personaggio col nome Cid, sempre, C-I-D, sempre, a partire dal secondo Final Fantasy. Per esempio Cid, uno forse il più famoso dei Cid, è in Final Fantasy 7, che è appunto Cid, un personaggio giocabile, mentre in Final Fantasy 9 ovviamente appare anche qua un altro Cid. In questo caso Cid è il reggente di Lindblom, che è un appunto un posto, uno stage sempre abbastanza importante di Final Fantasy 9. Reggente di Lindblom è zio di Garnet, appunto la principessa. Un'altra cosa, un'altra curiosità, diciamo, che riguarda invece soltanto questo Final Fantasy, sono gli ATE, scusatemi, cioè gli Active Time Event. Non sono niente di particolare, praticamente sono delle scene che vengono aggiunte e che accadono allo stesso momento in cui si sta visionando magari un filmato. Quindi mentre noi magari stiamo guardando una sequenza, un filmato, possiamo scegliere di premere Select per vedere cosa magari sta accadendo in qualunque altra parte del gioco, diciamo, del mondo del gioco, per vedere, diciamo, gli sviluppi proprio in tempo reale, in un certo senso. Quindi è come se il gioco stesso ci spingesse ad addentrarci sempre di più, a pensare come se tutto intorno a noi mentre giochiamo si stesse evolvendo. E appunto, ribadisco di nuovo, Final Fantasy 9 è stato anche concepito in un certo senso come un Final Fantasy, un contenitore gigantesco di citazioni. Ci sono citazioni per esempio a Cloud, in pratica sempre a Lindblom. Se si entra in un negozio di armi, e parlando con il negoziante lui menzionerà per esempio Cloud, oppure verso la fine del gioco si riprendono le parole sia Cloud che Squall. Molti hanno notato anche delle somiglianze praticamente in tutto e per tutto con Final Fantasy 4, poiché praticamente la storia è quasi simile, i personaggi hanno quasi gli stessi nomi, le vocazioni ovviamente sì, hanno tutti gli stessi nomi, le vocazioni in tutti i Final Fantasy, però tra questi due sono simili. In pratica molti aspetti di Final Fantasy 9 ricalcano proprio fedelmente degli aspetti di Final Fantasy 4. Come ho detto, appunto, ci sono dei riferimenti continui a Squall e Cloud, appunto rispettivamente Final Fantasy 8 e Final Fantasy 7, dei riferimenti anche a Final Fantasy 1, cioè diciamo, il riferimento maggiore a Final Fantasy 1 è proprio Vivi, no? Che come ho detto prima era il mago senza nome del primo Final Fantasy, quindi in un certo senso è proprio un contenitore gigantesco di tutto ciò che è Final Fantasy, che era comunque è stato Final Fantasy fino al 2000, quando è uscito appunto il 9. Ed è per questo che, appunto, lo ripeto, secondo me è il Final Fantasy proprio definitivo, che ha proprio l'essenza di tutti i Final Fantasy, e che consiglio a chiunque altro magari al momento che chi mi sta ascoltando volesse provarlo. Insomma, chi di voi non ha mai, non avesse mai giocato un Final Fantasy, avesse voglia di addentrarsi nel mondo di Final Fantasy, iniziasse dal 9, perché è perfetto in qualunque maniera, diciamo. Anche se in generale, come ho detto prima, i fan reputano spesso il 7 o l'8 o il 10, insomma, scavalcano molto. Molti fan scavalcano molto facilmente la tappa del 9, perché non lo so in realtà perché, mi sembra molto strano. Secondo me è proprio il Final Fantasy definitivo, quello che dà emozioni proprio più corpose, in un certo senso, ecco. E parlando di emozioni di Final Fantasy, se avete, diciamo, buon gusto, vi saranno piaciuti i tre pezzi che ho passato, l'inter soundtrack, diciamo, che ho passato fino ad ora. Perché, come dirò dopo il prossimo pezzo, Final Fantasy IX ha il sonoro migliore della serie, almeno parere mio. Ovviamente questi sono tutti pareri personali. Questo sonoro, diciamo, ha una storia particolare, però ecco, ne parliamo dopo. Al momento passiamo un'altra delle soundtrack di Final Fantasy IX. Personalmente è proprio la mia preferita in generale tra tutti i Final Fantasy. Ascoltatela con molta attenzione, perché secondo me è davvero un capolavoro. Si chiama You're Not Alone. You're Not Alone, sempre Nobuo Uematsu, sempre soundtrack di Final Fantasy IX. E, come ho detto prima, è una delle mie soundtrack preferite. In generale, con Final Fantasy VII, la soundtrack di Final Fantasy IX è proprio in generale la mia preferita di qualunque altro gioco, diciamo, perché è assolutamente... è stupenda, è geniale, è bellissima. Comunque, prima di continuare e concludere, devo fare una piccola precisazione di un errore che sinceramente non sono neanche sicuro di aver fatto. Perché prima il secondo pezzo che ho passato non si chiama Rose of April, si chiama Rose of May. Quindi non aprile, ma maggio. Mi sono un attimo confuso coi mesi. Bene. Insomma, spero di avervi fatto capire, almeno fino ad ora, che di avervi convinto, ecco, del fatto che Final Fantasy IX è un capolavoro assoluto in qualunque altro, in qualunque senso, dalla storia al sonoro, pure se vogliamo anche alla grafica, ai personaggi, a tutto quanto. Insomma, è proprio il Final Fantasy definitivo. Resta da parlare appunto del sonoro, insomma lo avete avuto modo di ascoltare un po' di cose. Il sonoro è stato composto appunto da Nobuo Uematsu, che è il compositore, diciamo, principale, no? Quello più famoso delle serie, che ha ormai, diciamo, abbandonato, forse non per sempre, però per esempio nel tredicesimo, nell'ultimo Final Fantasy, non ha composto le musiche. E che, diciamo, si supera di Final Fantasy in Final Fantasy, fa delle musiche proprio geniali, fatte proprio geniali, ecco, diciamo, proprio da orchestra in un certo senso. E è difficile pensare, no, mentre si ascoltano queste composizioni, che siano state utilizzate per, alla fine, per un gioco, neanche multipiattaforma. E insomma, questo rende praticamente il gioco più un tesoro di quello che è, no? La curiosità rispetto al sonoro è che durante una delle riunioni, no, in Square Enix, venne detto a Nobuo Uematsu di comporre più o meno un 20-25 tracce che sarebbero, insomma, state anche sufficienti, 25-30 tracce che sarebbero state sufficienti diciamo, all'implementazione di una buona soundtrack nel gioco. Bene, Nobuo Uematsu consegnò ben 160 pezzi soltanto per Final Fantasy IX, e non vennero neanche utilizzati tutti quanti, ne vennero utilizzati solo 140, cioè tra virgolette solo 140, e sono uno più bello dell'altro, sono geniali, perché ascoltarli, diciamo, singolarmente, no? È già un conto, però ascoltarli proprio nel gioco e vedere come sono, in un certo senso, smistati, no? Smistate tutte le soundtrack ai vari livelli, ai vari personaggi, alle varie situazioni, semplicemente è geniale. E, diciamo, crea, come ha fatto anche per il Final Fantasy VII, il tassello mancante che mi permette di dire questo è un gioco stupendo, è un gioco magnifico che bisognerebbe essere, diciamo, giocato e poi ascoltato, ecco. Oppure giocato e ascoltato, cioè è un gioco che ho scoperto io ormai da parecchi anni, di cui non mi stanco mai, perché è semplicemente geniale. Per quanto riguarda invece proprio l'adattamento, come ho detto prima, del sonoro al gioco, allora bisogna dire una cosa che appunto mi sono scordato di dire, come tantissime altre cose che sicuramente mi sarò scordato di dire, e che il gioco in generale ha un'atmosfera che richiama molto i canoni medievali, e anche la musica stessa è stata adattata ai canoni medievali, no? Sembra proprio di essere una sorta di medioevo, però fantastico, fatto di ovviamente di magie, incantesimi, maghi, tutto il resto. Ed è una cosa molto strana, in un certo senso, per un Final Fantasy, questo, perché talvolta i Final Fantasy tendono ad avere sempre questa atmosfera, però in modo un po' tra virgolette cyberpunk, no? Invece è un'altra cosa che personalmente rende Final Fantasy uno dei miei preferiti, è che proprio si sente la purezza della anche dell'epoca in un certo senso, no? Di Final Fantasy. E quindi anche la musica stessa viene adattata all'atmosfera medievale. Non so, io credo di aver detto più o meno tutto quanto quello che dovevo dire in questo primo nerd show dedicato a uno dei miei giochi preferiti, appunto Final Fantasy 9. Spero di avervi, di non avervi annoiato, davvero lo spero. Spero che i volumi siano stati più o meno equilibrati. Spero che vi siano piaciute soprattutto le soundtrack del gioco. Io prima di lasciare, di andarmene, lasciandovi insomma con l'ultima soundtrack a cui dedicherò diciamo qualche secondo in più perché merita diciamo una menzione speciale, vi lascio i contatti che sono poi i contatti del podcast stesso, quindi email nerdocast@gmail.com, nerdocast una otra nerd e cast nerdocast@gmail.com, poi sono su Twitter, se mi volete trovare su Twitter sono nerdfats, www.twitter.com/nerdfats, tutti i contatti che poi saranno nelle note e sul blog, appunto il blog www.nerdpodcast.blogspot.com, dove metterò a breve anche questo nerd show, e se volete lasciate commenti, insomma. Se volete contattarmi, se volete magari insultarmi perché ho preso mezz'ora, diciamo, ecco, 40 minuti della vostra vita, potete farlo, sì, basta che lo facciate a questi indirizzi. E, va bene, vi lascio l'ultimissima soundtrack, sempre proveniente ovviamente da Final Fantasy 9. La menzione speciale è data dal fatto che con You're Not Alone, anche questa che si chiama Melodies of Life, è una delle soundtrack non solo mie preferite, ma proprio di maggior successo di Final Fantasy IX. Infatti, insomma, la soundtrack di Final Fantasy IX ha fatto così tanto successo in generale, oltre diciamo a fare successo per il gioco, che viene suonata, non dico spesso, però a volte viene suonata in alcuni concerti d'orchestra, proprio di orchestra, soprattutto in Giappone. Per esempio su YouTube, se digitate Melodies of Life orchestra version, ci saranno proprio dei pezzi di concerti di orchestra veri e propri, in cui viene praticamente riproposta Melodies of Life, però solo strumentale. Dico solo strumentale perché Melodies of Life è una canzone che almeno nel gioco ha le parole. Siccome la versione che ho trovato io, cioè Podsafe, non ha le parole, mi dispiace tantissimo non potervela farla ascoltare, quindi fate una cosa, andate magari su YouTube, non lo so, digitate Melodies of Life e ascoltatela con le parole, con le lyrics, perché sono, in generale è ovviamente una canzone resa migliore, però quella che vi propongo è una canzone, è una Melodies of Life version, diciamo, instrumental. Bene. Non ho davvero nient'altro da dire, i contatti ve li ho dati, godetevi Melodies of Life e al prossimo Nerdcast, al prossimo Nerd Show. Ciao ciao.